si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Eccoci qua, cari ascoltatori, buongiorno a tutti. Quando sono le 7:33 minuti riprende una nuova diretta su Radio 24, si può fare. Cominciamo con una rassegna stampa, quindi un'occhiata veloce al giornale di oggi, una rassegna stampa che ci accompagna fino al giornale radio delle 8 e poi inizierà Si può fare. Cominciamo subito, vi ricordo i nostri contatti, Si può fare, trattino Radio 24, la pagina Facebook, e poi potete scriverci al 349-238-6666 per commentare quello che sentite. Iniziamo, vai, giornali. E allora, giornali di oggi che si occupano degli stress test, dei risultati degli stress test, della campagna elettorale in America, delle conseguenze degli attentati terroristici in tutta Europa, in Francia in particolare, quindi di guerra all'ISIS. Cominciamo con il Corriere della Sera. Banche sane, male solo Monte dei Paschi di Siena. L'istituto di Siena risulta il peggiore, ma arriva il via libera della BCE al piano di salvataggio. Intesa è al top in Europa, bene anche Banco Popolare, UBI e Unicredit. Stesso argomento naturalmente per la prima pagina del Sole 24 Ore. Stress test, ok a Banco, UBI e Unicredit. MPS bocciata, ma la BCE approva il piano. Intesa San Paolo, prima tra i big europei. E oggi il Sole 24 Ore dedica proprio un approfondimento di 7 pagine per valutare la tenuta, l'andamento delle nostre banche in Italia, e quindi ogni azionista può valutare da sé, in base allo schema e agli approfondimenti del Sole 24 Ore, l'andamento della propria banca all'interno di questi stress test. Anche Repubblica si occupa di questo. MPS bocciata, ma arriva l'ok al piano per risanarla, scrive in prima pagina. Stress test, bene 4 banche italiane su 5. Montepaschi bocciata, scrive ancora il Corriere, superano lo stress test Unicredit, UBI e Banco Popolare. Intesa San Paolo è al top in Europa, MPS risulta tra le peggiori in caso di forte recessione per 3 anni, bocciate agli stress test delle autorità europee EBA, anche la spagnola Banco Popolare e l'austriaca Raiffeisen, scusate, non ce la posso fare. E questo è il titolo per quanto riguarda le banche. Andiamo invece alla situazione in Francia, sempre dal Corriere della Sera. Fondi stranieri per le moschee, lo stop francese. Il premier Valls, misure allo studio, le moschee non devono più ricevere finanziamenti stranieri e gli imam devono essere formati in Francia, non altrove. Il premier francese Valls spiega che la guerra al terrorismo sarà lunga e complessa, che il rischio zero non esiste e ogni cittadino francese deve sentirsi responsabile della sicurezza collettiva. Su Repubblica, centropagina, la foto davanti alla chiesa di Saint-Étienne de Rouvray, dove è stato ucciso martedì scorso il prete. Un gruppo di musulmani ieri sul sagrato della chiesa di Saint-Étienne. Accade che molti cittadini musulmani si sono recati dentro la chiesa per pregare con il rito cattolico, e la stessa cosa poi è stata fatta dentro la moschea, dove un parroco ha potuto parlare a tutti fedeli cristiani e musulmani. Domenica, musulmani nelle chiese, preghiere di pace dalla Francia all'Italia, e questo l'appello. Tra poco entreremo di più nel dettaglio. Se ne occupa anche la Stampa. I vescovi italiani ai musulmani insieme in chiesa, questo è un gesto enorme. E poi cos'altro ancora su questo argomento? Possiamo cominciare a leggere qualche qualche articolo, per esempio, tre idee per battere il terrore. Per una volta leggiamo un editoriale, quello di Ernesto Gari della Loggia, sul Corriere della Sera, che ha il merito, oltre a fare le consuete analisi, ma anche di provare, sì, a dare dei suggerimenti, delle idee per battere il terrorismo. Comincia Gari della Loggia dicendo: a quanto mi risulta non si è ancora pensato fino ad ora di mettere sui terroristi una taglia, cioè premiare la delazione. Non so se la promessa di una cospicua somma di denaro, accompagnata dalla promessa dell'impunità e da altri premi, per esempio quello di avere visti immediati per l'Italia a tutto il nucleo familiare del delatore, cioè di chi denuncia il terrorista, non so se tutto questo potrebbe davvero produrre la effettiva denuncia di qualche terrorista. Ciò che appare più che ragionevole immaginare, scrive Gari della Loggia, invece, è il clima di forte insicurezza, di sospetto diffuso, di disagio psicologico che si creerebbe nell'ambiente terroristico, dove fidarsi di qualcuno diverrebbe assai più difficile, perché essendoci una taglia sopra il terrorista, è chiaro che chiunque amico, conoscente del terrorista può essere tentato, anziché di difenderlo, di oscurarlo in qualche modo, di denunciarlo, di beccarsi soldi. In secondo luogo, nel caso del terrorismo, mi sembrerebbe, scrive Gari della Loggia, del tutto lecito trasformare i comportamenti che normalmente darebbero luogo al reato di favoreggiamento, anche per effetto di un semplice silenzio o mancata denuncia alle autorità, nel reato ben più grave di partecipazione a banda armata. Quindi, se hai aperto la porta di casa ad un potenziale terrorista, non è solo favoreggiamento, ma il reato più grave è proprio direttamente di partecipazione a banda armata. Quindi una riforma del codice penale in questo caso. Si tratta, insomma, di cercare di fare il vuoto intorno ai terroristi. Terzo punto, è essenziale che i paesi europei sotto attacco trasmettano all'esterno il messaggio che, contrariamente a quanto sembra, non sono suscettibili di intimidazione né sono ricattabili con ragioni economiche. E qui c'è una causa importante, fondamentale del terrorismo: i finanziamenti. Parliamo qua soprattutto delle reti terroristiche e nel mondo, insomma, non dei lupi solitari, ma poi sappiamo che gli stessi lupi solitari spesso ottengono l'appoggio e il finanziamento di queste reti. È decisivo da questo punto di vista l'atteggiamento, scrive Gari della Loggia, da tenere verso l'Arabia Saudita. E questo è un punto che inconfessabile dal punto di vista politico viene sussurrato, ma non viene mai detto, naturalmente, perché riguarda il rapporto con uno Stato, quindi qualcosa di molto importante, uno Stato dal punto di vista economico, tra l'altro, molto cruciale, importante. È ammissibile, continua l'editorialista del Corriere della Sera, che si continui ad avere normali rapporti diplomatici con un paese il quale da tempo notoriamente finanzia alcune tra le principali formazioni del terrorismo islamico? E questa è una domanda alla quale prima o poi qualcuno dovrà pur rispondere, e parliamo naturalmente di politica. E queste sono le tre idee per battere il terrorismo. Restando all'interno del Corriere, ci spostiamo in Francia, perché andiamo su Repubblica, ci spostiamo in Francia per vedere come il governo sta cercando di riorientare la propria azione dopo aver dovuto ammettere le falle della sicurezza, l'insuccesso totale del fatto di avere da un lato positivamente schedato potenziali terroristi, dall'altro di esserseli lasciati sfuggire sotto il naso, e addirittura durante l'ora di libertà uno dei due, lo sapete, è potuto entrare nella chiesa di Saint-Étienne e commettere l'omicidio che è stato commesso. Allora, ieri il premier francese Valls ha ammesso il fallimento del sistema giudiziario. Il braccialetto elettronico è stato inutile. Adesso bisogna bloccare i finanziamenti stranieri per la costruzione di moschee sul suolo francese, e sono due punti diversi. In un'intervista ieri a Le Monde, il primo ministro, che pure ha difeso l'azione della Francia nella battaglia per sconfiggere il terrorismo di matrice islamica, non potrebbe fare altrimenti, è il capo del governo naturalmente, riconosce però quello che era ed è ormai sotto gli occhi di tutti sulla vicenda di Kermish, il giovane terrorista arrestato e rimesso in libertà con un inutile braccialetto elettronico, misura che non gli ha impedito di attaccare la chiesa assieme al complice Abdel Malik. Entrambi erano schedati come soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale. La macchina della giustizia non ha funzionato. L'ammissione, insomma, non si poteva non farla questa ammissione. Adesso però cosa fare? In che modo inasprire i controlli e le pene? Perché il governo francese ha detto chiaramente che insomma, il carcere preventivo per una persona schedata come potenziale terrorista, ma che in quel momento per la giustizia francese non ha nessun reato da scontare, non è possibile, non è immaginabile. Qualcosa bisognerà purché si inventino. Infatti Valls ha rivolto un appello alla magistratura: bisogna cambiare approccio caso per caso, ha detto, poi precisando subito però anche che non sarò io quello che cade nel facile errore di ritenere i giudici responsabili di questo atto di terrorismo. Quindi equilibrio da parte del premier francese Valls, ammissione di una falla nel sistema della giustizia, poche proposte però devo dire al momento concrete che possano rassicurare i cittadini, non solo quelli francesi, ma insomma probabilmente dalla Francia si aspetta tutti un qualche cosa che possa un po' rassicurare non solo i francesi. La Francia è sicuramente un paese guida da questo punto di vista. Ci fermiamo per una pausa sul traffico, torniamo tra un attimo. Allora, eccoci qua di nuovo rientrati con la rassegna stampa. Questa mattina stiamo parlando naturalmente ancora delle conseguenze dell'attentato di Saint-Étienne-du-Rouvray in Francia. Per esempio, torniamo sulla questione dell'appello degli imam ad andare in chiesa domenica, un appello accolto insomma da tutti con favore. Che cosa è successo? Partiamo da quello che è accaduto ieri nella chiesa profanata. I musulmani preghiamo insieme contro i barbari. Alle 4 del pomeriggio il sagrato della chiesetta normanna di Saint-Étienne si riempie di fedeli islamici, uomini, donne, bambini, ragazzi, imam. Mai visti così tanti musulmani in pellegrinaggio dinanzi a un edificio cristiano. E che effetto vederli pregare di venerdì poi. In altre occasioni il fatto che ci siano stati momenti di preghiera islamica davanti a luoghi di culto cristiani ha causato anche attriti, scontri, insomma è stato visto anche come un gesto di profanazione. Adesso naturalmente la sensazione è completamente diversa, almeno se entriamo nei panni dei cittadini di Saint-Étienne-du-Rouvray, una cittadina di appunto di 28.000 abitanti scossa dal grave fatto di martedì scorso, e quindi un raccoglimento che ha coinvolto centinaia di persone tra appunto fedeli cristiani e islamici, che poi si sono recati tutti insieme nella moschea Yahya, il cuore pulsante, scrive ancora Repubblica, dell'Islam, e forse è un bel segno della storia, a volte anche nei drammi accade, che 15 anni fa sia stata edificata grazie alla donazione dei terreni da parte di chi? Della diocesi, cioè il terreno dove si trova la moschea Saint-Étienne-du-Rouvray è stato donato alla diocesi della stessa cittadina. Sorge accanto alla chiesa di Santa Teresa, l'altra chiesa cittadina. Prima abbiamo pregato da noi, tutti insieme, cristiani e musulmani, adesso siamo venuti qui alla moschea per dare un abbraccio a padre Jacques e alla sua comunità, dice l'imam Mohamed Karabila. E quindi domenica vedremo se questo appello di insomma di ritrovarsi tutti nelle chiese, io dico anche i non cristiani, cioè i semplici cittadini, forse sono addirittura una maggioranza ormai di persone che non frequentano nelle chiese, nelle moschee, i laici, gli atei, tutto quello che volete, sarebbe davvero un bel segnale. Ci vuole meno timidezza, questa è una mia personale opinione, ma mi accodo a questa iniziativa, meno timidezza, perché è sicuramente importante far vedere questo, questo senso di partecipazione, di contaminazione, che va al di là delle follie, della purezza, dell'ideologia islamista, eccetera, eccetera. La chiudo qua con il presidente del Consiglio francese del culto musulmano, Anouar Kibek, che è stato lui a lanciare questo appello. Domenica tutti potranno vedere che musulmani e cattolici sono solidali. All'appello stanno rispondendo moschee di tutto il paese. In Francia ci sono 5 milioni di musulmani, 2.500 moschee. Che cosa è cambiato nel vostro mondo dopo l'omicidio di padre Jacques? La domanda. I musulmani sono doppiamente coinvolti, lo sono in quanto cittadini francesi e lo sono anche perché questi assassini uccidono in nome della loro stessa religione. La morte orribile di padre Jacques, anziché dividerci, ci avvicinerà ancor più alla comunità cattolica. Che cosa ha chiesto agli imam? Di dar visita alle chiese e non soltanto domenica, di far sentire la solidarietà ai sacerdoti che, come padre Jacques, predicano l'amore. Parole chiare, no? E poi, insomma, di condannare i terroristi che colpiscono in nome del falso Islam. E va bene, questa è la situazione in Francia, che viene ricordata un po' su tutti i giornali di oggi. Restando sui temi esteri, la fotonotizia di Hillary Clinton che, in mezzo ai palloncini rossi della convention democratica, con lo sguardo felice e dietro lo sguardo un po' più attonito del marito, l'ex presidente Bill Clinton, Hillary accetta la nomination, si apre un nuovo capitolo verso il voto americano. Secondo una tradizione inaugurata dal presidente Truman nel 1952, la CIA condivide i rapporti segreti con i candidati alla Casa Bianca. Le ultime esternazioni di Trump stanno inducendo i vertici dell'intelligence a ripensarci, informare Trump le diffidenze che ci sarebbero appunto nella CIA rispetto a, insomma, a questo tema. Allora, adesso intanto ancora una cosa relativamente all'atteggiamento dell'Italia nei confronti dei scenari di guerra dove si fa la guerra all'ISIS. Il Fatto Quotidiano se ne occupa in prima pagina perché c'è un problema di trasparenza. Il conflitto segreto dei nostri soldati in Iraq e in Libia, scrive Il Fatto. Reparti italiani nella guerra all'ISIS, ma il Parlamento non ne sa nulla. Operazione Centuria è l'altro titolo. Silenzio, si combatte la centuria italiana sui fronti anti-ISIS. Scrive Il Fatto, la guerra all'ISIS l'Italia la fa ma non lo dice. Operazioni militari segrete condotte dalle forze speciali e decise dal governo all'insaputa del Parlamento, missioni che ufficialmente non esistono e che quindi vanno categoricamente smentite fino alla loro conclusione, fino a quando non arriva il conferimento ufficiale di medaglie e onorificenze. È accaduto 10 anni fa per l'operazione Sarissa della Task Force 45 in Afghanistan, decisa e sempre negata dal governo Prodi. Sta accadendo oggi in Iraq e in Libia, dove truppe d'élite italiane partecipano da tempo ai combattimenti contro l'ISIS. E capite che è un punto importante secondo il punto di vista del Fatto Quotidiano, perché partecipare o no alla coalizione anti-ISIS, per dirne una, vuol dire intanto esporsi o meno a possibile rappresaglie anche dei terroristi. Questo è un aspetto, ma poi ce ne sono altri. Naturalmente sappiamo che per entrare in uno scenario di guerra l'Italia ha bisogno poi di un voto del Parlamento e quindi sarebbe una anche una sorta di violazione della Costituzione italiana. Ma prosegue Il Fatto Quotidiano a proposito della Libia. dell'operazione italiana nell'ex colonia autorizzata da Renzi lo scorso 10 febbraio con un decreto subito segretato, non si conosce ancora il nome in codice e né i corpi speciali che vi partecipano. Si sa solo, in via del tutto ufficiosa, che si tratta di un piccolo distaccamento basato all'aeroporto militare di Misurata. Quindi il problema del nostro intervento militare in Iraq e in Libia, dove si combatte l'ISIS, senza un voto del Parlamento e senza che il Parlamento addirittura sia informato. Questo scrive il Fatto Quotidiano. Altre notizie, altri titoli di giornali, per esempio sulla RAI se ne occupa il giornale La Nuova RAI di Renzi, è il titolo principale, costa già 10 milioni in più. Gestione Allegra a Viale Mazzini, le spese volano, la Corte dei Conti protesta, Cassa Depositi e Prestiti usata politicamente, altro che austerity, è il titolo del giornale. Per tornare al Fatto Quotidiano, anche qui il titolo è su questo, RAI, i super contratti, quelli che superano il tetto dei 240.000 euro, i contratti non milionari, ma insomma, come possiamo dire, da centinaia di migliaia di euro, che hanno sollevato qualche scandalo, giustamente anche nei giorni scorsi, li ha scritti direttamente Campo Dall'Orto, scrive il Fatto Quotidiano, perché lo staff dell'amministratore delegato ha condotto in autonomia le trattative con i professionisti esterni più pagati. E quindi insomma c'è un articolo che spiega come e perché direttamente Campo Dall'Orto ha gestito questa vicenda dei contratti. Poi un'altra notizia riguarda invece Roma e la riporta il Corriere in prima pagina, riguarda la questione dei rifiuti, l'assessora della Raggi e i dossier sui rifiuti, si indaga sul ruolo addirittura di Muraro, l'assessore, nella municipalizzata AMA. Bufera sul Comune di Roma, l'assessore all'ambiente Paola Muraro potrebbe essere chiamata a rispondere del suo ruolo in AMA, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti, ricoperto per un decennio fino alle elezioni, e per il rapporto con l'ex amministratore delegato Panzironi. Cosa succede? Succede questo, che i PM Galanti e Ielo stanno facendo alcune ipotesi, si tratta di approfondimenti che i due inquirenti titolari di molte inchieste amministrative non possono trascurare di fronte ad alcune denunce avanzate da vari soggetti nei mesi scorsi. Il primo dubbio dei PM relativo all'assessore pentastellato è collegato a uno degli uomini chiave di Mafia Capitale, Franco Panzironi, già amministratore delegato dell'azienda in epoca Alemanno, al libro paga per la procura di Salvatore Buzzi, ricorderete l'imprenditore delle COP al centro di Mafia Capitale. Panzironi avrebbe rivalutato ruolo e mansioni della Muraro, che avrebbe poi beneficiato di una consulenza continuativa di 1 milione di euro per 12 anni, dal 2004 al 2016. Una decisione a norma? Si domanda il Corriere. Quasi certamente no. Gli altri dubbi poi riguardano il tipo di lavoro svolto dalla Muraro, scrive anche Sergio Rizzo. 1 milione di euro in 12 anni, il conflitto di interessi della consulente Muraro, che ha lavorato per l'AMA e adesso come assessore dovrebbe strigliare l'AMA e farla rigare dritto e farli raccogliere i rifiuti e portarli in discarica. Su tutto questo l'ombra di Cerroni e le dichiarazioni dell'attuale amministratore delegato dell'AMA, che dice dovremo sicuramente riaprire la discarica di Malagrotta, un fallimento assoluto per Roma. Ci fermiamo, giornale radio, torniamo subito dopo con Si può fare. Ciao, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funky world. Uptown funky world. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno a tutti da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini, buon sabato. E siamo tornati di sabato mattina in diretta dopo una puntata registrata. Ed è l'ultima puntata di questa stagione, per poi risentirci a settembre, cioè no, con tutto agosto ovviamente che farà Alessio, ma non insomma tutto, è l'ultima. Non tutto perché pezzi di agosto. Pezzi di agosto, quest'anno l'ho già detto, la programmazione della radio prevederà un programma sulle Olimpiadi durante la fascia serale. Poi ci sono tante novità, ci sono le Iene che fanno fuori posto. Insomma, Radio 24 va avanti anche certo, d'estate. Noi certo. Però oggi ci fermiamo. Oggi sono triste che sia l'ultimo. Poi sono triste perché ho appena scoperto che la serie del Sole 24 Ore è una palestra di Pokémon. E questo mi sembra molto, molto, molto bello. E soprattutto invece il centro sociale Cantiere, che è di fronte, invece no, è un Pokéstop. Sono un appassionato, sono assolutamente dentro nel settato dentro? Assolutamente. No, ho 74 Pokémon e vado anche nelle palestre. Ieri ne ho conquistate due in contemporanea. Si riescono anche a guadagnare delle monete, quindi dei soldi. Cioè, non soldi veri. Ovviamente soldi fantastico. Che poi si usano sulla app di Pokémon Go. Allora potrai istruire anche un anziano come me che non sa assolutamente nulla ed è forse anche molto felice di non sapere nulla dei Pokémon. Però ho trovato molto belli i raduni che si stanno facendo in varie città italiane di caccia di Pokémon, perché almeno lì ci si incontra, possono fare anche delle nuove amicizie. Ne parlo proprio per questo, perché sì, in realtà è un gioco rivoluzionario, perché tutte le critiche che si sono sempre fatte ai videogiochi, ovvero si sta sempre seduti sul divano e stai sempre da solo e non conosci nessuno, sono l'esatto contrario, perché con Pokémon Go devi per forza camminare. Ti faccio solamente un esempio dal mio Pokédex, dal mio diario, riesco a leggere quanto ho camminato. Io negli ultimi 8 giorni ho fatto 68 km a piedi per andare a cercare Pokémon. 68 km a piedi che io di solito faccio in 2 anni, li ho fatti in 9 giorni da quando sono iscritto, che se non sbaglio era il 19 di luglio, oggi è il 30, 11 giorni, chiedo scusa. Sono senza parole, 68 chilometri. Ed è certo, oddio, poi come ben sappiamo, e questi sono tutti a piedi, perché vale anche la bicicletta, ma non vale l'automobile, quindi per si può fare è assolutamente il nostro gioco, direi. Adesso a questo punto di solito parte pedala. 800 24 00 24, vi aspettiamo cari ascoltatori. Oltre che per stare con noi in questa cavalcata di notizie della settimana, nella quale cerchiamo di rovesciare l'ordine delle notizie partendo da qualche buona notizia, se possibile, anche per ne abbiamo bisogno, un po' di racconti di quelli dalle vacanze, sai, di quegli aneddoti. C'è il mondo che sta praticamente andando in frantumi, lo sappiamo, l'emergenza, il terrorismo, gli stress test delle banche, la notizia più allegra è Trump. E allora abbiamo bisogno dei vostri racconti, quegli aneddoti delle vacanze, che quelle cose che normalmente ci fanno imbestialire: il traghetto in ritardo, la stanza occupata quando arrivi in hotel o in residence, che però di fronte a tutto questo casino planetario diventano quasi belle, rassicuranti. Cioè, siamo in vacanza, godiamocela. Esatto, mi sembra perfetto. Come dici tu, questa settimana in particolare, ma tutte le ultime, sembrano delle settimane fatte apposta per vietare la nostra trasmissione, per far sì che noi non si vada in onda, perché è molto difficile trovare il lato buono di un certo tipo di notizie. E quindi mi sembra molto bello chiedere racconti vostri, che diciamo vengono ridimensionati da questo periodo terribile che si sta vivendo. E forse ridimensionati, perché poi dicelo, perché in realtà poi ci sono tanti motivi che uno dice: sì, ho capito che ci sono le stragi, comunque la mia stanza deve essere pronta alle 11, non è che allora improvvisamente posso entrare alle 14, anche perché ho i bimbi, il cane. Oppure se siete in viaggio proprio oggi, una partenza intelligente, siete partiti all'alba per evitare il bollino rosso, bollino nero, non so oggi esattamente la giornata rosso, come direi rosso. Si presenta, chiamateci 800 24 00 24, siamo qua. C'è ragione chi no, sono una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno se ragione così sia, a pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno. C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogno. Sogno. Mai più, il mio nome è mai più. sicurezza e luoghi di preghiera, in particolare le moschee. Dal presidente della Lega dei Musulmani Europei arriva una proposta: segnalare direttamente persone che possano sembrare dei potenziali terroristi, dei potenziali svitati. Segnaliamoli alle forze dell'ordine, perché sappiamo che non sempre, non tutti i terroristi, non tutti gli attentatori erano degli assidui frequentatori delle moschee. Spesso però c'è un periodo di radicalizzazione o di avvicinamento, e comunque sono membri della comunità islamica. E allora arriva questa proposta, ci è sembrata una proposta da accogliere a braccia aperte. Ecco noi Alfredo Maiolese, presidente della Lega dei Musulmani Europei. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. E tra l'altro arriva proprio nel fine settimana nel quale una delle massime autorità islamiche francesi, insieme a anche alle autorità cattoliche in Francia, certo, hanno deciso di fare questa giornata di preghiera comune, e speriamo di incontro e che speriamo che vada a buon fine. Maiolese, ci spiega questa proposta e chi coinvolge? Sì, innanzitutto appunto devo dire che la Lega dei Musulmani Europei, l'European Muslim League, è una organizzazione europea, internazionale, costituita più di 10 anni fa. E mi hanno contattato numerosi europei, appunto, che come me hanno fatto un percorso provenendo dalla religione cristiana. Ci siamo incontrati tempo fa in Kuwait, e poi mi hanno deciso di fare, appunto, di costituire questa organizzazione, che non è formata da membri arabi ma da europei. Questo non perché noi non vogliamo gli arabi, ma perché comunque noi europei abbiamo, diciamo, la nostra cultura, sappiamo come poterci relazionare con gli altri nostri connazionali, e difendiamo ovviamente anche queste persone da dove ci sono anche degli ostacoli linguistici. E nella nostra particolarità che siamo stati appunto selezionati proprio per prevenire questi conflitti. Per spiegare che cos'è la religione islamica, sembrerebbe un paradosso che realmente è una religione di pace, anche perché io, essendo stato cristiano per molti anni, non avrei mai scelto una religione che incita all'odio, a uccidere le persone. Mia mamma è cristiana, certamente non vado a uccidere mia mamma. Ecco perché nasce questa Lega dei Musulmani Europei, che in questo percorso, soprattutto negli ultimi anni, siamo stati contattati da Scudo Carabiniere, che è l'ente morale dell'arma, appunto, per la difesa e la tutela dei diritti dei carabinieri, dopo aver appunto controllato e verificato la nostra, soprattutto, buona fede, professionalità, eccetera, abbiamo deciso di costituire questi comitati di sicurezza islamici. E dove, ecco, ci spieghi un po' meglio nel dettaglio dove, come, chi vi partecipa? Allora, innanzitutto noi sappiamo appunto che questi terroristi, io non li chiamerei neanche Stato Islamico, come uno Stato di miscredenti, hanno dapprima percorso l'obiettivo di, si chiamano hard target, cioè gli obiettivi più sensibili, oppure gli aeroporti, le stazioni, eccetera. Adesso purtroppo hanno spostato la loro azione con questi soft target, cioè con questi più facili, vulnerabili, no? Passeggiate, vedinetta. E tutti questi ex carabinieri, appunto, in pensione, hanno appunto costituito questa ente morale, e noi insieme a loro abbiamo selezionato in questo momento, perché è nato circa 10 giorni fa, alcune moschee. Adesso hanno aderito Milano, Genova, Albenga, Avarese 2, Napoli e Palermo, quindi stiamo facendo un campione, abbiamo coperto già tutta l'Italia. E all'interno dei centri islamici o delle moschee abbiamo selezionato degli imam o dei responsabili o delle persone che nel momento in cui appunto andrebbero in contatto con dei potenziali terroristi verranno segnalati immediatamente alle forze dell'ordine, sia la polizia che ai carabinieri. Quindi, insomma, questo è il minimo che noi musulmani italiani e europei possiamo fare, perché realmente siamo anche stufi di dover sempre giustificarci per il terrorismo creato da queste persone che in nome dell'Islam, che io direi purtroppo miscredenti, perché non si possono dire di islamico, cioè hanno soltanto un nome. E poi dobbiamo anche verificare questo, cioè vediamo le persone, i soggetti che sono stati selezionati per questo, chi sono, no? Perché noi continuiamo a dire sono terroristi, ma sono persone depresse, emarginate. Così si vede effettivamente il fallimento delle politiche sociali anche occidentali, magari l'Italia un po' meno, più che altro In Francia ci sono, non dimentichiamo, ci sono circa 6 milioni di musulmani. Guarda. Sì, senta, sì, però è una parte, c'è una parte di questi terroristi o sedicenti di terroristi che sono in realtà magari dei ragazzini depressi o con problemi. Poi il problema del terrorismo in generale esiste ed è di quello di cui stiamo parlando. Non è che stiamo parlando dei casi che giustamente semplicemente ci terrorizzano e però vanno in un'altra direzione. Però rimaniamo sulla questione invece del terrorismo, nel senso che lei dice molte moschee stanno collaborando, e volevo capire in che senso, cioè in che modo. Sì, no, ci sono proprio in questi ultimi 10 giorni anche noi ci siamo resi conto che la nostra iniziativa è ottima, però non è che le forze di polizia, i carabinieri hanno dormito, stanno aspettando noi. Ci sono già molte collaborazioni sia con la questura che con l'arma dei carabinieri, addirittura un impegno scritto con il Ministero degli Interni che prevede appunto una collaborazione costante da parte di tutti i centri islamici, perché sì. Tenga presente, più o meno noi oggi abbiamo, sono quasi tutti riconosciuti, perché comunque hanno fatto comunicazione al comune o alla regione, non è che siano, noi apriamo dei centri islamici così che poi siano fatti scenti, questo è un altro discorso, però hanno fatto proprio degli accordi di collaborazione con le forze dell'ordine. Ecco che insomma in questo momento possiamo dire siamo più avanti rispetto a molte altre realtà europee. Le voglio chiedere, Maiolese, le voglio chiedere questo, perché la vostra iniziativa è importante, è giusta, è positiva, va nella direzione giusta, anche perché, ed è questa la domanda che faccio spesso anche agli imam, a chi frequenta le moschee, c'è un'area di, come dire, un'area grigia, come c'è stata anche in passato, di quasi di tolleranza rispetto al terrorismo rosso, nero, alle Brigate Rosse negli anni 70 in Italia, chi se lo ricorda, di persone che non sono sicuramente dei terroristi, non impugnano armi, ma che possono in qualche modo essere accondiscendenti rispetto ad alcune delle idee, o quantomeno tollerare, magari mormorare a bassa voce che in fondo i terroristi hanno delle ragioni. Questo glielo voglio chiedere, perché può essere anche questo lo spunto da cui partire per dire segnaliamo dei potenziali terroristi che magari non lo sono, ma che vengono in moschea e dicono, fanno certe dichiarazioni. Ma no, questo sì, la domanda è molto pertinente, la ringrazio. Non siamo a questi livelli, perché effettivamente sarebbero, cioè è molto pericoloso, anche perché noi ci sono addirittura, ad esempio a Genova, parlavo ieri con imam, abbiamo proprio una telecamera all'interno della moschea dove vengono registrate tutte le persone che entrano e escono. Quindi no, non siamo a questo livello, perché sarebbe veramente nostra responsabilità morale davanti a Dio, davanti alle istituzioni, dover preventivamente appunto fermare queste persone. Possiamo dire che c'è, in un discorso da bar, uno dice sì, però in generale possono dire sì, però due cose importanti. Sono molti paesi arabi che in questo momento sono stati proprio, c'è una guerra, vedi l'Iraq, vedi la Siria, vedi anche la Libia, eccetera, eccetera, e sono arrabbiati perché continuiamo noi occidentali a vendere, non io, lei, i paesi occidentali a vendere le armi, anche perché molto spesso dicono a me, però non ci sono delle industrie di armi nel deserto, e quindi perché le continuiamo a vendere, no? Quindi è quindi un problema di interesse, e sono arrabbiati perché c'è comunque questa, si vede un neocolonialismo quando in questo momento non è più neocolonialismo, ma proprio un colonialismo, cioè l'occupazione da parte di forze straniere, militari. Quindi insomma, questa, a parte noi italiani che andiamo lì insomma per poter aiutare queste persone, però ci sono altri che invece hanno altri target, quindi un po' questa la rabbia, no? E quindi su questo la domanda, dicevo, è molto pertinente. Su questo alcuni ragazzi delle banlieue eccetera, un po' meno in Italia, però bisogna stare molto attenti, perché questo fenomeno appunto di, cioè non è una guerra contro l'ISIS, ma questo il Papa l'ha detto bene, ma contro l'ISIS, e secondo me bisogna integrare l'unica arma contro i terroristi, cioè se questa persona si trova isolata all'interno del suo paese, perché si chiama Mohammed, ma è un cittadino di seconda generazione e non è aiutato da nessuno, però devo dire questo, dobbiamo anche considerare che anche questo è un fenomeno anche dei ragazzi giovani italiani, no? Che dice che non abbiamo un futuro, quindi il problema è il lavoro, la sicurezza, l'avvenire, quindi su questo ovviamente loro ci navigano, no? Perché se non riusciamo a dare degli strumenti per poter far crescere anche economicamente i nostri paesi, è chiaro che questi ragazzi si sentono in balia delle bombe, certo. E vengono avvicinati. Ma la cosa che devo chiedere, lei, voi siete tutti musulmani però europei, giusto? esatto. Mi chiedevo come venite recepiti, essendo ovviamente una minoranza all'interno del mondo dell'Islam, cioè come venite recepiti all'interno delle moschee, nel senso che comunque il fatto che voi siete dichiaratamente europei e che non accettate il fatto di arabi al vostro interno? No, allora non è che noi non accettiamo gli arabi, diciamo che all'interno dell'organizzazione, di questa organizzazione, non è che noi accettiamo. No, vabbè, siete un'organizzazione europea, giustamente. E loro ci vedono molto bene. Guardi, a tutte le volte sono stato all'estero, voi sapete che sono anche ambasciatore, eccetera. Ho parlato con molti diplomatici, sia in Italia che in Europa, ci vedono molto bene, perché dicono sì, effettivamente voi avete un ruolo determinante, quindi anche loro sono contenti, perché chiaro, quando un arabo vede un musulmano europeo e italiano, è chiaro che insomma è molto soddisfatto. Poi noi cerchiamo di aiutarli. Sì, soprattutto perché state anche chiedendo diciamo puntare il dito all'interno delle moschee su quelli che secondo voi potrebbero essere terroristi, giusto? Quindi esatto, non proprio la situazione più comoda. Mi sono dimenticato di precisare che questi comitati, CSI, comitati di sicurezza islamici, hanno un ruolo informativo, non operativo, non è che noi andiamo a sostituire. Beh, certo, questo non sono le ronde. Non sarebbe neanche possibile dal punto di vista dell'ordinamento. Siamo in una democrazia. Senta, parteciperà all'iniziativa di domenica in qualche modo, che anche il Coreis, per esempio, le comunità islamiche in Italia, ha detto di voler estendere dalla Francia all'Italia, cioè una giornata di preghiera, una giornata di comunanza nelle chiese da parte dei cittadini musulmani? Ma sicuramente, non solo, vi dirò di più, il 14 ottobre, appunto, che è venerdì, se mi permette di fare questa notazione, stiamo organizzando la grande Marcia della Pace, Via della Pace Genova, dove ho invitato circa 10.000 persone da tutte le parti del mondo. Ci sarà il Presidente della Repubblica di Malta, ovvero il Ministro Pinotti, il Presidente del Senato Giordano, che parlerà appunto anche della situazione dei rifugiati, il Presidente del Parlamento Arabo, che parlerà dei siriani, il ministro degli affari della Tunisia, di altri stati, quindi quindi insomma questo sì, è, ma a parte dove... l'elenco degli invitati appuntamento sì, per il 14 ottobre. A me invece grazie in una grazie Maiolese piazza. Grazie, dobbiamo chiudere, mi interessava sapere domenica se parteciperà, se ci sarà un'adesione a questa iniziativa, che ripeto sarebbe bello che trionfasse, no? Che fosse un vero incontro anche da parte di chi non è né cristiano né di fede musulmana, ma è un semplice cittadino, magari la spiritualità se la vive a modo suo. Esatto, anche questo è interessante, nel senso che qualcuno, diciamo, provocatoriamente un po' come me e te, Carlo, uno potrebbe io. Anche dire, molto giusto, il Papa ha detto non è una guerra di religione, allora facciamo una giornata in cui ci incontriamo. Forse va anche fatto una giornata senza religione, visto appunto per sottolineare che non è quello, che non è una guerra di religione e che spesso la religione invece porta delle contrapposizioni molto poco piacevoli. 800 24 00 24, tra un attimo torniamo, vi aspettiamo anche con i vostri aneddoti dalle vacanze, ci scrivono al 3 4 9 2 3 8 6 6 6 6, per esempio abbiamo preso la barchetta a Palermo prima volta, tutto bene, poi si incaglia Gioele in vacanza da Palermo, quegli aneddoti di piccoli disagi a volte, che però poi in una situazione come quella che stiamo vivendo di grandi incubi, di grandi paure, a volte invece diventano così rassicuranti. Iniziano le vacanze, noi almeno oggi è il nostro ultimo giorno di lavoro, poi iniziano le vacanze anche per noi, a tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, messaggi al 3 4 2 3 8 6 6 6 6. Ci scrive Daniele da Monsummano. E ora chi me la fa compagnia il sabato mattina mentre in treno vado dal marito in Romagna? O Maurizio Marruzzi, vero? Buone ferie, allora fate i bravi e tornate presto. Non ho capito, Daniele Monsummano che va dal marito in Romagna? No, non ho davanti gli messaggi. O siamo di fronte a un caso di coppia gay, prima ancora, cioè prima ancora che sia consentito sposarsi, oppure c'è qualche errore di grammatica? Si può sposarsi, perché sono arrivati i decreti attuativi, stanno iniziando, è stato celebrato il primo matrimonio fra due donne, quindi assolutamente si può. E quindi evidentemente siamo di fronte ad uno dei primi matrimoni gay, perché Daniele raggiunge il marito in Romagna e ci ascolta tutte le mattine, il sabato e la domenica mattina evidentemente. Anzi, possiamo intestarcela anche questa, direi, come vittoria, perché non si poteva fare quando abbiamo iniziato questa trasmissione, e adesso invece si può fare i matrimoni fra persone dello stesso sesso. Joele da Palermo, buongiorno, benvenuto. Ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Prego. Vi raccontavo via SMS la nostra storiellina simpatica. Cosa è successo? Abbiamo preso la barchetta in noleggio la prima volta qua a Palermo, queste spiagge magnifiche. E tutto a posto, tutta la giornata abbiamo girato tutte le spiagge della riserva dello Zingaro, abbiamo tirato giù l'ancora 20 o 30 volte. Poi quando stiamo per ripartire, io tiro, il mio suocero è lì che prova a partire con la barca, io tira quest'ancora, non viene tu, e non sapevamo più come fare. È rimasta allora, incagliata. Sì, ma in una maniera incredibile. Allora alla fine ci è toccato telefonare al ragazzo che ci ha noleggiato la barca e chiedi come fare, e lui diceva sì, no, perché c'è una tecnica, dovete girare la barca, poi dopo provate a tirare ancora. E abbiamo provato in tutti i modi. Per telefono credo che sia complicato. Ma siete ancora lì? Cioè, ci stai chiamando dalla barchetta? No, per fortuna abbiamo risolto poi abbiamo tagliato col nostro coltellino multiuso, tagliato tutto il filo dell'ancora. No, e avete lasciato l'ancora lì? Per forza, sappiamo come fare. È vero che c'è una manovra che bisogna fare, andare secondo corrente, spostarsi, girare per disincagliare la... Però bisogna essere insomma abbastanza esperti, sì, navigatori. No, io tiravo con le mani, ma avevo paura che me la sfigassero la mano. Scusa, ma voi avete preso la barca essendo dei neofiti del... Ma infatti, ma non è stata una bella idea, Joele. Bisogna tra l'altro, sì, il mare era piatto come una tavola. Poi, tra l'altro, noi, appunto, neofiti anche, diciamo, nel noleggio, perché siamo tornati e una grattugiatina, secondo me, l'ha andata anche sulla benzina, perché alla fine noi andavamo pianissimo, appunto per quello, e ci hanno fatto pagare la benzina come se fossimo arrivati fino a dici che ti hanno fatto la tara al contrario con la benzina. Ma quanto tempo fa è successo tutto questo? Ieri, perfetto. No, perché mi sembrava addirittura che l'avessi digerita bene, come se fosse successa tipo l'anno scorso. Invece ieri. No, quindi... però il mare ce l'ha fatta, era talmente perfetto, bello che ce l'ha fatta passare. Quindi grazie, direi che è un ottimo si può fare. Complimenti, grazie mille. Ciao, buona giornata. E ciao, poi ciao. Anche oggi il racconto che ci piace di più si porta a casa, credo ci siano ancora i biglietti, sì, perché noi dal nostro scatolone delle mostre, del gruppo 24 ore cultura, abbiamo Miro al Mudec di Milano. Raffaele da Bari, ciao, buongiorno. Ciao. Buongiorno. Ciao. Allora, sono partito stamattina da Bologna, esattamente da Pieve di Cento, con la paura di incontrare chissà che, visto le previsioni di Bolino Rosso. Solo sì, certo. Un po' di anni che fortunatamente questi bolini vengono sempre disattesi, almeno dalle mie parti. Perché almeno... probabilmente si fa tanta pubblicità, si sa che c'è questo rischio Bolino Rosso, e quindi molti partono prima, dopo... Cioè, forse in realtà è un piano ben riuscito, nel senso che ci dice Bollino Rosso e quindi molte persone partono in altri giorni o in altri orari. O no, molto presto. Sicuramente, perché sono partito. A parte te, comunque. Tu sei l'unico che sei partito? Sì, alla fine sì. E non c'è in giro nessuno, ci stai dicendo? No. Molto, molto libera come strada, soprattutto quei tratti ostici tipo Rimini... oppure l'accordo ma tu da Pieve di Cento dove stai andando, però? Perché se fai solo Pieve di Cento Rimini è un conto, se stai andando in Puglia è un altro. No, io sto andando esattamente a Polignano a Mare. Quindi la strada è lunga, certo. Quindi magari il bollino rosso l'hanno beccato quelli che per evitare il bollino rosso si sono partiti o prima oppure partiranno dopo e si troveranno tutti in coda. Invece Raffaele, che è partito regolare nella giornata bollino rosso, è l'unico in autostrada e sta viaggiando sicuro verso Polignano. Fantastico. Ma sei in macchina così adesso? Sono adesso in macchina da solo, sto raggiungendo mia moglie e mia figlia dopo un mese. Sai, la vita degli insegnanti è questa, quindi... Certo, ma in che punto sei nella strada? Aspetta, come la vita dell'insegnante è questa? Cioè, tu sei un insegnante? No, mia moglie fa l'insegnante, mi ha lasciato da solo lì a Bologna, da quelle parti, a lavorare. Lei era già in ferie da un mese. Ah, la vita dell'insegnante nel senso che hanno molta vacanza, questo vuol dire se n'è andata via prima. Vabbè, questo... stavi sbertucciando tua moglie in diretta radiofonica, comunque. In che punto dell'autostrada ti trovi in questo momento? Ho superato Vasto Casalbordino. Perfetto, quindi possiamo dire ai nostri ascoltatori che se siete di Vasto e uscite in questo istante non trovate traffico, giusto? Da queste parti sì. Perfetto. Cioè in questo momento il panorama è come se tu fossi sulla Brebemi, l'autostrada quella deserta che non prende nessuno, dove addirittura ci sono dei ragazzi che hanno fatto un video giocando a pallone perché tanto non passava nessuno. Questa è più o meno la situazione, Raffaele, sull'autostrada? A Vasto. All'incirca sì. All'incirca. Va bene, buon viaggio, ciao, grazie. Grazie mille, buon viaggio. Ci fermiamo anche noi per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua ancora di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E buongiorno da Carlo Gabardini. Ancora un ascoltatore, poi tra poco andremo a Torino dove si sta sperimentando una macchina mangia polluzione, mangia inquinamento. È la prima zona di aria pulita della città, ma non solo, è una sperimentazione interessante. Sembra appetitosa, mangia polluzione. Stefano dalla provincia di Brindisi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Una piccola premessa, innanzitutto le vostre sono vacanze più che meritate, però ci privano per alcuni giorni di un duo irresistibile. Grazie Stefano. Ma è la verità, sì, io sì. Quando sento la competenza e l'educazione giornalistica di Maurizio e la vivacità letteraria di Gabardini, credo che sia veramente una grande carezza. La vivacità letteraria di Gabardini. Io la ringrazio moltissimo. Siete veramente, sono commosso. Comunque partiamo invece dall'esperienza. Io da una vita villeggio in questo piccolo paese della provincia di Brindisi, in Valle d'Itria, la Valle dei Trulli, la Murgia dei Trulli. Ebbene, ogni anno mi rammaricavo perché vedevo che erano affollatissimi. Ma lei usa delle espressioni, Stefano, incredibili. Mi rammaricavo. Senti che facciamoci i complimenti. È così che si parla l'italiano. Come un libro stampato. Bene. No, mi spiace. Comunque, dicevo, perché vedevo questa folla a mangiare carne disgustosa alla brace, oppure a seguire concerti immondi pop, no, fatti in maniera scadente. Ebbene, ieri sera, nel museo, nel cimitero monumentale di Sant'Anna, c'era un film un altro mondo di Thomas Torelli, mentre in concomitanza c'era uno dei soliti concertini squallidi. Ebbene, la folla dal film di Torelli era inaudita, mentre il concerto era completamente deserto. Come dicevo alla vostra... C'era un raduno di intellettuali lì dalle parti vostre. Ma guardi, e tra l'altro ho scoperto piacevolmente che alcuni fisici importanti italiani si erano trasferiti di recente in questo piccolo paese, ecco, della Murgia, che era conosciuto più per le sue origini contadine ed umili. Quindi sei rimasto comunque sorpreso, Stefano, per questa cosa. Positivamente. C'è un ascoltatore che chiede se in realtà si tratta di De Luca, se lei è De Luca che sta parlando sotto Mentite Spoglie. De Luca è il governatore, perché ha un po' la stessa cadenza quando invitato da Croce. Comunque è una bellissima... Sono di origini partenopee. E stimo tanto De Luca perché è un grande, lo conosco anche, ma non sono lui. È una bellissima storia questa che ci ha raccontato, anche perché ricordiamo che non è che i concerti pop, per forza, nel senso che potrebbe essere anche che fosse una band orrenda, nel senso che ce n'è di belli e di brutti, non basta fare un concerto pop per cui allora vada bene, ce n'è di bruttissimi e di bellissimi, come di film, ce n'è di bellissimi e di bruttissimi, anche di tematica sera, anche in bianco e nero, è incredibile, sì, esistono film bellissimi anche in bianco e nero, quindi la storia che ci ha raccontato è molto bella e la ringraziamo moltissimo. Grazie, buona giornata e buone vacanze. Un tempo mi dice mia nonna, non c'erano tanti motori, nessuno faceva colonna, le strade pigliavano fiori. S'andava in città tutti a piedi, qualcuno con la bicicletta. Lo so, forse tu non ci credi, ma nessuno viveva in fretta. Questo è il sound della città pulita, dove il sole ti scalda la vita. Resta sempre la solita domanda. La città pulita è l'obiettivo di questo progetto che ci porta a Torino e ne parliamo con Betta Maggio. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Amministratrice delegata di, ci aiuti a pronunciarlo, come You Earth, come U trattino Earth come terra. Terra. Sì, ecco. Insomma, ogni tanto ricordiamoci anche che esiste l'italiano, la lingua italiana. Vabbè, ma insomma, questo è un altro discorso. Dillo in italiano, la nostra campagna che portiamo avanti. Però così, posso dire più che per scherzo che per che ci crediamo. Tu terra non è bellissimo, è no, meglio Earth, no. Perché tu terra non si può sentire. Lo so. Si può trovare un nome in italiano bello, sì, questo si può. Allora, io ho detto una macchinetta mangia polluzione, mangia inquinamento. È un po' questo il cuore di questo progetto che state sperimentando a Torino? Esatto. Grazie innanzitutto per l'interesse. È sempre un piacere avere chi si interessa all'ambiente e a delle soluzioni. Ah, noi siamo in prima fila. Esatto. Sì, lo sappiamo. Poi la macchinetta mangia polluzione a tradimento, ci piace tantissimo. Beh, questo non è male. Anche perché noi siamo unici a farlo con una biotecnologia. Quindi dentro questa macchinetta, che poi tanto etta non è perché è alta dai 2 ai 3 metri, però è sostanzialmente un vascone pieno di microrganismi che non sono geneticamente modificati né patogeni, che mangiano l'inquinamento. Quindi è la natura che ci aiuta a combattere l'inquinamento. Esattamente. Quindi noi abbiamo studiato come ha fatto la natura a pulirsi dalle tossine del Big Bang e come continua a pulirsi dall'inquinamento quando può, nelle cascate, nelle foreste, nella natura. L'abbiamo miniaturizzato e messo in un contenitore e abbiamo fatto in modo che questo processo fosse molto amplificato e funzionasse in un raggio di azione. Ora, siccome noi abbiamo letto che insomma, da quando c'è la nuova giunta a Torino, la giunta Appendino, si è parlato di chiudere il wifi, di dieta vegana, anche di cose un po' così, no? Possiamo dire alcune un po' campate per aria, anche se poi lei ha detto no, non vogliamo chiudere il wifi perché non l'ho detto da nessuna parte. Anche perché senza internet poi come fanno a votare quelli con la banda larga? Ci siamo un po' preoccupati. Invece questo progetto ha comunque basi scientifiche e che risultati ha dato fino ad ora, dottoressa Maggio? Dunque, diciamo che questa tecnologia viene utilizzata da ormai 20-30 anni in ambito ospedaliero, in ambito indoor e anche outdoor, per esempio nei siti di rifiuti dove ci sono delle emissioni di puzza tremende, noi mettiamo, o nei depuratori, noi mettiamo i sistemi al di fuori del sito per fare in modo che l'inquinamento venga catturato prima di espandersi all'esterno, quindi in condizioni molto peggiori dell'inquinamento urbano. Ora, per noi la sfida dell'urbano più che una sfida è la volontà di dimostrare, e vogliamo dimostrarlo misurando questa bolla di aria pulita nella città di Torino, come possono crearsi delle tasche di aria pulita, quindi che funzioni. Noi sappiamo già che funziona in situazioni molto peggiori e molto più estreme. In questo momento dobbiamo solo capire per questo modulo, e la città di Torino ci ha dato a disposizione con Living Lab appunto questa possibilità di poter sperimentare su questa piazza, su quest'area, quanto è effettivamente larga la bolla di aria pulita, e lo facciamo anche con l'aiuto di droni. Abbiamo dei partner. Dobbiamo quasi chiudere, quindi insomma. Ed è un peccato. Sì, perché è appassionante anche dal punto di vista tecnico, forse, questo progetto, e lei è riuscita a spiegarlo benissimo. Betta Maggio, diamoci appuntamento più in là, un'altra volta, più avanti, per vedere i risultati, quando ci saranno, di questo progetto You Earth. Ho detto bene, Carlo? Perfetto. Grazie intanto. A presto! Si può fare! Si può fare. Cronache da un paese migliore. Una piccola bestia di razza di cane, con i denti davanti mangiati dalla fame. Mi bussava alla porta quando sentiva odore di pane. Quella piccola bestia di razza di cane. Diceva che il mondo è fatto di strade, che a volere percorrerle tutte ci si può fare male, che la strada più bella è sempre la strada di casa, e che l'uomo è una bestia e a volte anche una bestia fidata. ma sono sicuro. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Ben ritrovati. Allora, a WhatsApp 3492386666 c'è un ascoltatore che ci dice, Marco, scrive così Carlo: adesso anche voi dovete mettere in rete il compenso che avete dato al radioascoltatore per l'uso della locuzione vivacità letteraria, cioè quello che ci ha fatto i complimenti. È vero, era mia mamma, è sicuramente mia mamma. Ma come ha fatto a venire in mente? Poi vivacità, 30. Sì, letteraria, Carlo, dai. Sarà per il mio libro, avrà letto il mio libro. Io invece durante il GR ho sentito un amico che saluto, Matteo Osso, che anche lui è in giro in macchina ed è tra Verona e Vicenza, e conferma che non c'è in giro nessuno in quel punto lì. Ma dov'è sto bollino rosso? No, no, è giusto, esattamente come hai detto tu, essendo stato annunciato il bollino rosso, evidentemente ho un'altra amica, Paola Sguazzini, che invece è partita per la Spagna stanotte, proprio di notte, con tre bambine, perché avevano paura del traffico. Però insomma, tra Verona e Vicenza, quindi confermiamo che in questo momento, se avete da partire, partite tipo adesso. Un altro ascoltatore, Fabio da Modena, ci ringrazia per avergli fatto conoscere Rockin' Mille, l'iniziativa di Fabio Zaffagnini, il concerto dei Mille, che hanno suonato una scaletta di pezzi rock Mille la prima volta. Ne abbiamo parlato più volte, l'abbiamo sentito nella puntata registrata, no, l'altro sabato, scusate, nella puntata registrata. È andato al concerto del 26 a Cesena e ci ringrazia. Tra gli aneddoti delle vacanze che vi chiediamo di raccontarci oggi all'800 24, non ce la posso fare, ma 00 24, va tutto bene. Ultimo giorno di lavoro prima delle vacanze anche per noi, si parla anche di animali e di cani in spiaggia. È con noi Carla Rocchi, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Una amica di Radio 24, perché è con noi spesso, Carla Rocchi. Allora, parto da questa notizia. Chi ha un cane, soprattutto, ma forse vale anche per i gatti, la stessa cosa, ma insomma, animali che non si possono lasciare da soli a casa, se lo porta in vacanza, ma ci sono sempre più spiagge dove, ahimè, non possono entrare i cani. Chissà perché. Succede nelle spiagge di Lipari, per esempio, sulle isole Eolie, e anche in Sardegna. E anche in Sardegna abbiamo letto molte notizie. Che ne pensa? Allora, per prima cosa, penso che l'ultima cosa da fare al mondo è portare un gatto in spiaggia. Ecco. Il gatto sta bene a casa, se sono due è meglio, perché si fanno compagnia. Per quanto riguarda i cani e le spiagge, in realtà tutta questa storia ridicola nasce da un provvedimento addirittura precedente la guerra mondiale. Immaginate voi il contesto. Ma come tante cose in Italia, che hanno origini che si perdono nella notte dei tempi, e nessuno ci ha più messo mano. Che appunto succede? Detto questo, saltando tutti i 70 anni, 80 anni intermedi, sì, il punto è questo: il sindaco può dire che dove i cani possono andare. Lo dico in positivo. Perché se un sindaco dice che i cani non possono andare in certe spiagge, ci deve dire dove possono andare. Cioè, il divieto assoluto e qui i cani non vanno in spiaggia non è consentito. Ah, quindi se i sindaci, per esempio, di Vulcano o di Lipari dicono, vietano queste spiagge e basta, no, come dire, un'ordinanza illegale, inaccettabile, come dobbiamo prendere? Con il sindaco di Lipari, che conosco e che è una persona cara e molto attenta e aperta, il conto di parlare. Perché in realtà non si può fare un divieto assoluto, il divieto assoluto non esiste, si sta affermando in giurisprudenza anche il diritto soggettivo delle persone. Se io ho un affetto, se io ho un animale che deve stare con me, non mi puoi inibire quel diritto soggettivo, mi puoi dire che non può stare nel posto A, ma mi devi dire che può stare nel posto B. E deve essere, immagino, nello stesso comune, perché non è che uno può dire, perfetto, tutti i cani vadano in Jugoslavia. C'è stato un deficiente di sindaco che una volta si era messo in testa, un sindaco pugliese, non ve lo ricordo perché l'ho cancellato anche dai miei ricordi, che aveva deciso che tutti i cani della Puglia sarebbero stati mandati in Albania. No, molto comodo. Il sindaco può naturalmente decidere solo per il suo comune, ma non solo, ma dentro il suo comune può decidere qualcosa che sia anche di pari, più o meno di pari livello, perché la tendenza era quella di dire il posto dei cani è dove sta la foce del fiume inquinato, l'immondizia e magari qualche altra porcheria di questo genere. Quindi noi le dico cosa facciamo. Quando arriva un'ordinanza di questo tipo, facciamo una diffida, e se in genere 99,9% il sindaco ci ascolta, perché spesso gli vengono fatti firmare ai sindaci dei provvedimenti fatti da qualche burocrate residuale. Quando il sindaco non ascolta, noi facciamo causa, e queste cause le cominciamo a vincere, le abbiamo già cominciate a vincere, perché le argomentiamo. Quindi ma poi diciamoci anche un'altra cosa: c'è una fortissima pressione che deriva sul vantaggio turistico. Se un operatore turistico sa che una persona con animali, ormai sono sempre più numerose le persone che hanno animali, vuole portarsi il cane in spiaggia, è lui stesso che fa pressione su Twitter. Certo, anche perché magari il cane consuma, anche non dico proprio delle Coca-Cola, però qualche cosa consumerà. Ma guardi che il cane consuma, tanto il cane consuma e poi il proprietario del cane consuma perché certo. È cliente di questi. Ma ci sono paesi anche che anche perché hanno gli deve correre dietro e quindi gli viene anche più sete, almeno un ghiacciolo. Ma no, le volevo però chiedere una cosa, perché intanto questa cosa è molto chiara, che io perlomeno non la sapevo, che quindi il sindaco è obbligato, nel senso che può dire in alcune spiagge gli animali non sono ammessi, però deve assolutamente garantire la possibilità in altre spiagge di dare il permesso agli avventori di andare con i propri animali. Ma se qualcuno è abituato ad andare sempre in quel bagno lì perché incontra i cottinelli che sono i suoi vicini di bungalow e il sindaco gli vieta di andare col cane, e uno deve cambiare spiaggia? O deve cambiare sindaco? Beh, dopo questa risposta perfetta, io non ho niente da aggiungere. Eh sì, però mi sa che si fa prima a cambiare spiaggia, ahimè. Tra l'altro, guarda, di questi tempi si fa prima a cambiare sindaco. Oddio, giusto, anche questo giusto. È vero, anche questo è vero. Carla Rocchi, quindi ci ha detto, i gatti però non vanno portati in spiaggia. Perché non vanno portati i cani invece sì, i gatti no? Ma perché il cane è un animale, diciamo, come posso dire, che segue il padrone in qualunque momento con grande desiderio, sì, con grande necessità di fare branco. Il gatto, che è affettuoso tanto quanto il cane, io ne ho 7 a casa e posso testimoniare, però ha anche bisogno della sua privacy, della sua ombra, della sua pace, dei fatti suoi. Non è anche amante proprio della sdraio, delle creme. Ma un gatto nella sabbia, il gatto è un animale pulitissimo, sì, si cosa di sabbia, si lecca. No, ma si può lasciare il gatto a casa? Lei ha detto meglio se sono in due che ci fanno compagnia. Però uno dei due deve essere in grado di aprire le scatolette, perché sennò... Esatto. Ma bisogna mandare qualcuno, un amico, si danno le chiavi. Guardate, di casa. È molto semplice. Oddio, è molto semplice. Era andata via un attimo la linea. Sì, sì, no, sì. No, eccomi qua. Dicevo, ecco, è molto semplice. Il gatto, se sono in due o di più, si fanno compagnia, il problema non c'è. Si lasciano erogatori di croccantini e acqua a volontà. Naturalmente questo è il minimo sindacale. Certo. Come può sentire, non siamo degli esperti, ecco, perché noi a erogatore di croccantini ci siamo guardati e ci è venuta anche un po' fame. È molto semplice, è un aggeggetto per cui scende c'è una certa quantità di croccantini, quando è scesa una volta poi scende la successiva. Io personalmente le dico, questo è il minimo sindacale. Io quando vado via, le rare volte, sì, che vado via, a casa c'è la tata dei gatti che dorme con loro, perché i gatti hanno bisogno di compagnia, hanno bisogno di non essere stressati. Vabbè, però, ma non è che tutti si possono permettere, mi scusi, la tata dei gatti. No, ma questa è una cosa. Però magari uno, esatto, ma ha 7 gatti, esatto, quindi no, l'erogatore di croccantini sarebbe da 28 quintali. Uno al massimo può dare le chiavi di casa a un amico, guardate, che va lì una volta al giorno. È il buon senso che ci aiuta. È il buon senso, si fa la cosa migliore per gli animali quando si è costretti ad andare via, e chi si deve assicurare cibo, acqua e un po' di compagnia, perché anche il gatto si deprime se poi deve stare solo una settimana. Certo. No, poi se si deprime il gatto, no, cioè già il gatto serve per tirarci sul morale a noi, se poi si deprime anche lui, infatti, addio, è finita. Però c'è un'altra, perché dunque il gatto quindi lo possiamo lasciare a casa e come dire, non incorriamo in un reato, perché il Tribunale di Arezzo invece ha stabilito recentemente, credo, che se lasci il cane a casa è reato. Beh, un momento, durante se la lasci il cane, certo, se tu allora io ho premesso che intanto il gatto deve avere, meglio che abbia una sua compagnia, comunque deve avere qualcuno che lo va a visitare, non fosse altro che per pulire le lettiere, ci vuole questa continuità di controllo sugli animali e di conforto. E se uno lascia un cane da solo, senza nessun contatto, lo lascia lì, peggio ancora lo lascia su un barcone, non garantisce le cose minime, è giusto quello che ha fatto, quello che ha stabilito il Tribunale d'Arezzo. Perché è ovvio che io posso lasciare a casa un cane se vado a lavorare per un certo numero di ore, ma se lo lascio a casa sempre da solo e lo deprivo di qualunque contatto e lo faccio stare male, in buona sostanza lo faccio stare male, non capisco intanto perché me lo sono preso, e comunque non è giusto che lo debba far soffrire. Quindi si tratta di vedere come il provvedimento si lega alla situazione, perché poi di cose strane ce ne possono essere sempre, ma in buona sostanza se il cane è trattato male è giusto che venga sanzionato il proprietario. Carla Rocchi, resti con noi, ascoltatori, 800 24 00 24, vi aspettiamo con i vostri aneddoti dalle vacanze, anche che riguardano gli animali. Adesso facciamo una pausa sul traffico, poi dobbiamo parlare dell'orso rinchiuso assurdamente in un centro commerciale in Cina e di questa triste storia. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, prima di parlare dell'orso che sta in questo centro commerciale in Cina ed è una storia incredibile, però voglio fare un po' di informazione verità, no? Torniamo alla questione degli animali, dei cani in spiaggia, perché ci sono due punti. Uno è chi ha i bambini, cani e i bambini, che può avere paura magari che anche grossi animali possano in qualche modo stare in spiaggia, è tutto libero, non ci sono recinti, e questo è un punto. E poi l'altra cosa, i cani nell'acqua, fare il bagno dove è passato un cane, i cani possono essere più o meno puliti, ci possono essere questioni di malattie? Mare, ma siamo passati, l'acqua di mare, guardate, l'acqua di mare è di per sé un antisettico. C'è mai visto un qualcosa trasmettersi, una malattia qualunque, quando ci sia, trasmettersi nell'acqua salata? L'acqua salata guarisce le ferite, rimargina le abrasioni, e queste sono, diciamo, queste sono proprio, come posso dire, non le voglio definire queste robe. In quanto riguarda i bambini, no, beh, sono preoccupazioni che ci possono. Ma non è una preoccupazione, ma come può essere una sgombriamo il campo dai complottismi. Possiamo anche ricordare che se uno fa il bagno nella vasca col cane, posso capire, esatto. Ma se uno si fa il bagno a mare col cane, ma voi avete idea di cosa scarica a mare e si depura comunque? L'acqua salata è un depuratore naturale. Sì, e poi possiamo forse ricordare che comunque dentro del mare ci sono un sacco di, diciamo, ci sono più animali che uomini, per fortuna, al momento. Per fortuna, al momento, sì, ma di fatti non è una cosa. Però è giusto ricordarlo, perché poi quando si è lì, quando sei in spiaggia, hai di fianco un enorme cagnone e io che sono ignorante di animali, magari inizi a pensare, che ne so, avrà le pulci, avrà le zecche, me le attaccherà. Ma se, quando anche ci fosse la pulce, che poi non c'è, perché ormai chi ha i cani mette gli antipulci e quant'altro, la pulce dentro l'acqua affoga molto semplicemente. Vede, questa è giustamente, e infatti bisogna parlare con lei, e io infatti verrò in spiaggia solo con lei, perché giustamente. Bene, andiamo subito, con tutti i cani, andiamo. È molto giusto. E invece l'altra domanda? È quella sui bambini. Guardate, io vi dico soltanto una cosa, i bambini che vengono morsi dai cani da grandi, insomma, le persone che vengono morse dai cani da grandi, 99,9% dei casi sono bambini a cui è stato detto attento al cane, non lo toccare, ti fa male, perché il bambino si spaventa. Quando noi ci spaventiamo emettiamo un ma come possiamo fare però? Perché non è che possiamo io dire sono bambini. Uno di quei bambini di sicuro, perché sono sempre molto terrorizzato. Ma guardi che questo deriva dal, cioè, fatto, è colpa dei genitori dei bambini se il bambino viene morso dal cane. I genitori lo fanno in buona fede perché pensano di difenderli, ma questo sì. È come quando si dice, attenzione bambino, non mettere le mani a terra che ti cosi. Sì. Si è visto per esempio passando semplicemente spostandoci di 15 gradi, che per far fare gli anticorpi ai bambini bisogna lasciarli confrontare con l'ambiente naturale, certo che non sia una discarica, perché la vita ha le sue soluzioni molto più delle nostre preoccupazioni. Questo vale per gli anticorpi, vale per i cani, vale per il vivere sereno, il vivere possibilmente senza spettri, senza angosce, senza fobie, senza quello che ci rovina la vita. Ecco. Ma quindi l'incontro tra un cane qualunque, anche grosso, e un bambino, secondo lei non crea mai problemi? Non ci ma sono non mai problemi? Problemi, diciamo, ovviamente non crea problemi nella stragrande maggioranza dei casi. Vi do soltanto un dato, sapete, uno immagina cane grande, morso grande. Sapete che i morsi dei cani, i casi di morsicatura sono oltre il 90% dei casi di cani padronali, quindi non il cane che incontro sconosciuto sulla spiaggia, e sono soprattutto di cani piccoli. Perché il cane piccolo, il cane grande, se voi lo vedete per la strada, il cane grande è un cane che al massimo ti fa wow, è consapevole di se stesso. Il cane piccolo è un cane che si deve far vedere, che si deve far notare. Quindi se sfatiamo la leggenda che cane grande pericolo, cane piccolo. E comunque adesso sono terrorizzato anche dai cani piccoli. Ci mancava anche questo. E comunque anche in spiaggia il cane poi va tenuto al guinzaglio. Infatti lì ci vuole la buona educazione, che è una merce sempre più rara di questi tempi. Perché se si va in spiaggia col cane, lo si tiene sotto il proprio lettino, lo si tiene, diciamo, con quella educazione. Che vale anche per i bambini, perché voi peraltro, spiaggia, giusto. Ecco, perché in spiaggia non è che il cane dà fastidio, se di fastidio si può parlare, la cosa che dà più fastidio in spiaggia non sono neanche i bambini, sono le mamme dei bambini. Patrizia, Simone, non andare nell'acqua, levati dall'acqua, vieni qua. Senta, ma un sindaco fa anche l'imitazione. Esatto. Fa anche l'imitazione. No, perché, ma sapete qual è il punto? La signora mamma di Patrizia, Simone, Jessica, Deborah, Samantha non vuole tenere al riparo tutti i sudrodati bambini dai pericoli, ma vuole far sapere al mondo che lei è la mamma felice di Deborah, Samantha. Questa è la chiave psicologica. Un sindaco può vietare solamente su alcune spiagge che i bambini vadano non accompagnati? vietare che vadano non accompagnati? Beh, ma voglio dire, ma chi è che manda un bambino di 3 anni su una spiaggia non accompagnato? Assoluto, non è che lo vieta il sindaco, lo vieta la legge e il buonsenso, francamente. Senta, se sulla questione dei cani si può discutere, i cani in spiaggia, ci sono delle regole e anche delle regole di buonsenso da rispettare. Sulla storia di questo orso che se ne sta tristemente adagiato nel fondo di una gabbia di vetro in mezzo a un centro commerciale in Cina, nella regione del Guangzhou, davvero non si capisce come l'essere umano possa arrivare a dei livelli, come definirli, di trivialità anche. Io queste storie qua l'ho viste, io sono stato in Cina 2 volte e se c'è un'associazione che apprezzo e stimo per il lavoro che fa è Animal Asia, e ha lanciato una petizione per liberare quest'orso. 130.000 firme ha avuto questa petizione. Questo postaccio dove sta l'orso, che in realtà è una sorta di acquario, si chiama oltretutto Grand View, cioè gran vista, capito, panoramica. Certo. Questo povero orso non c'è luce naturale. I cinesi hanno, io spero, non voglio generalizzare, ci saranno sicuramente cinesi di gran buon cuore e anche lì si evolve il sentire comune, perché io ho visto la differenza rispetto alle 2 volte che sono andato in Cina. La prima una tragedia, la seconda un inizio di speranza. Però detto questo, il livello di come posso dire, di insensibilità, di insensibilità nei confronti delle sofferenze degli animali, forse deriva dal fatto che per troppo tempo e troppo recentemente si sono confrontati con assurde sofferenze delle persone. Non lo voglio sapere. Comunque quest'orso è innocente, non merita di stare così, gli animali non meritano di stare così. Animal Asia sta facendo una grande battaglia, noi stiamo sostenendo, diffondendo questa cosa, speriamo che anche i cinesi capiscano che questa cosa li addita al, come posso dire, alla riprovazione del mondo, vogliamo dire? Giusto, e tra l'altro è molto giusto quello che sta dicendo, perché da quello che ho letto la stessa Animal Asia è come se fosse stupita del fatto che gli stessi di questo centro commerciale è semplicemente che sono ignoranti, nel senso che ignorano il fatto che gli animali dovrebbero stare alla luce del sole, nel senso che si sono quasi stupiti quando è arrivata questa petizione e hanno detto ma allora facciamo qualche cosa, cioè loro nemmeno pensavano che stesse soffrendo, e questo forse è ancora più terribile. Ma difatti è così, in Cina c'è una sorta di sensibilità nei confronti degli animali, una sorta di sensibilità anestetizzata. E giustamente lei stava dicendo forse perché c'è stata o c'è tuttora una sorta di insensibilità anche nei confronti degli uomini. Però detto questo qualche segnale si vede, perché per esempio io ricordo l'ultima volta io ho visto dei cani a passeggio con delle persone, cosa che la prima volta che ero andato in Cina ma nemmeno lontanamente si poteva pensare, sembrava quasi un fatto disdicevole. Perché i cani cinesi vivono nei ravioli in realtà, giusto? I cani cinesi vivono nei ravioli, io spero che no, basta col complottismo, sto scherzando. Cassi complimenti degli ascoltatori che dicono Carla Rocchi simpatica, grande senso of humor, intelligente e anche una bella donna, e non sono un animalista per niente, Lorenzo da Pestum, io glielo giro e io vi ringrazio tanto, ma come fanno dalla voce lo capisco. Infatti è stupendo questo, cioè i complimenti fisici per radio sono sanno straordinari tutto. La seguono grazie, buone vacanze, vi ringrazio molto anche per questa opportunità di complimenti, grazie mille. Ciao. Si può fare questa che abbiamo ascoltato, non ho il titolo di questa canzone in realtà. L'Amsib dei Pindaric Flight, credo, è questo, non si capisce nulla. Ah, chiedo scusa perché sì, vedevo un titolo straniero e sembrava quindi le parole croce, sembrava il codice fiscale. Comunque di qualche è una canzone che è stata scelta da Claudio Grechi, che è il bassista di questo gruppo. Sì. Che, siamo stati buoni oggi, abbiamo voluto. Perché è molto bella la motivazione. Ci ha scritto perché siamo si può fare, perché nonostante tutte le peripezie che ci hanno colpito, siamo andati avanti. Ora siamo solo in 3, ma suoniamo come fossimo in 20. Quindi ci è sembrato un buon si può fare. Quasi vi ricordiamo, un richiamo di Rock in Mille. Esatto, vi ricordiamo a questo punto per la stagione prossima, da settembre, che noi cerchiamo sempre di si può fare in musica, ovvero se siete dei compositori, dei musicisti, dei cantanti o anche semplicemente degli ascoltatori e incontrate una canzone che secondo voi contiene il concetto di si può fare, vi chiediamo di segnalarcela, di dircela, perché noi la faremo ascoltare, la metteremo sul nostro sito e potete farlo come? Scrivendoci per esempio una mail a sipuofare@radio24.it oppure sui nostri account social, per esempio su Facebook, Facebook, certo che sbagliare anche Facebook, Facebook è proprio l'ultima, è l'ultimo giorno di scuola, chiediamo scusa, su Facebook a sipuofare-radio24 oppure su Twitter a sipuofare24 oppure sui nostri account personali, il mio è @CarloGabardini e c'è anche il mio @AleMaurizzi. Poi allora, io ho anche Snapchat, potete anche dirmelo via Snapchat. Ma lei mi fai molta paura quando dici questa parola Snapchat. Dove sono anche lì come Snapchat, Carlo Gabardini. Ma cos'è Snapchat? Snapchat è straordinario, video di 10 secondi. Ma ne parliamo l'anno prossimo a questo prossimo punto. Come ci di Pokémon. Diamo tempo al tempo. Stefania dalla provincia di Monza, buongiorno, benvenuta. Ciao, eccomi qua. Buongiorno. Prima di tutto, buone future vacanze. Grazie. E anche a te. Poi vi racconto cosa mi è successo. Estate 84, Cervia. Lavoravo in un bagno come barista. Ed sì, era qualche anno che vedevo una famiglia dove c'era questo ragazzo che nei vari anni cresceva finché non è diventato veramente un gran pezzo di ragazzo, che però un gran bel manzo, sì, un gran bel manzo, e aveva quel piccolo difetto che parlava solo lo svizzero, il tedesco, perché essendo svizzero tedesco l'inglese non lo parlava, io parlavo inglese. Per cui lui per 15 giorni veniva, si prendeva il suo cappuccino, brioche, si stava lì seduto mezz'ora, io contemplavo, lui contemplava e non ci si poteva scambiare mezza parola. Questo sembra un film, sembra un film di Wim Wenders. Esatto, 85. Io mi consulto con la mia amica e dico quanto mi piacerebbe poter conoscere il suo ragazzo, al che l'anno dopo, siccome l'inglese lo parlavo correttamente, dico, ma io quasi quasi vado a scuola di tedesco. Mi sono fatta una scuola serale di tedesco di un paio di mesi, ritorno nell'86, ritrovo la famiglia, quindi lui, e scopro che io sono andata a scuola di tedesco e lui a scuola di italiano, per cui ho passato 15 giorni stupendi con lui. Cioè lui aveva studiato l'italiano per poter conoscere te. Sì, è stato troppo bello, sì, è stato bellissimo. Ho un ricordo, guarda, le coincidenze della vita, eppure, cioè, una storia così estiva. Però è stata bella la coincidenza, cioè il fatto che io abbia studiato la sua lingua, che poi in ogni caso mi è servita anche nel lavoro, e poi lui... Mi sembra una storia perfetta, quella proprio di studiare le lingue delle altre persone. Poi se mi permetti una battuta, si può limonare anche senza conoscere le lingue, eh? Così, sì, per vabbè, dire, non è che lo svizzero tedesco si prende male, secondo me capisce... Sarebbe stato noioso per 15 giorni, abbiamo fatto anche altre cose. Giusto, giusto. Vabbè, giusto. Stefania, bellissimo questo aneddoto, che è una storia avvenuta 32 anni fa. Non è che poi nel frattempo non ti è successo altro nella vita, sì, altre cose belle saranno successe. Assolutamente sì. Poi, vabbè, la conoscenza delle lingue porta appunto a conoscere diverse persone, la conoscenza delle persone porta a crescere. Grazie Stefania, grazie mille. Beh, questo aneddoto non è male, anche se non è, diciamo, di questa vacanza, noi abbiamo chiesto aneddoti delle vacanze dell'ultima vacanza, magari però, era l'ultima vacanza, dovevamo chiedere questo forse. Mirella da Grosseto, buongiorno, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Faccio dei complimenti per la trasmissione che seguo sempre. Grazie mille. Volevo intervenire per gli animali. Certo. Ora, io sinceramente non voglio dire che gli animali debbano essere trattati male, ma mi sembra che tutto sommato, come avete ironicamente detto anche voi, che debbano essere accompagnati dei bambini in un parco perché un cane lo morde e è stato lasciato libero, o altrimenti anche al mare. Cioè, voglio dire... L'orso, per carità, si è trattato malissimo, ma forse da noi i cani vengono trattati meglio delle persone. Una regola, secondo me, tra animali e umani, ho detto mai maltrattare gli animali, ma neanche umanizzarli. Certo. Penso sinceramente. Perché ma e cosa intende? Quando dice umanizzarli intende tipo comprargli il cappottino? No, umanizzarli nel senso di trattarli proprio come essere umano, al di sopra proprio dell'umano, certo, dei bambini, delle persone, perché oggi mi rendo conto che si abbraccia più e si bacia un cane rispetto ad un bambino. cioè vedo genitori che hanno due bambini e due cani, tengono in collo il cane, lo abbracciano, lo baciano. Succede e a volte, Mirella, bambini. È anche una questione di età. Dal mio personale osservatorio ho notato questo, che finché ci sono coppie che hanno figli piccoli sono concentrati sui figli, quando i figli crescono e escono dall'età del cucciolo e entrano nell'adolescenza fastidiosa, anche se avrebbero bisogno comunque di attenzioni, anzi forse ancora di più, molto di si più. Comincia a spostare l'attenzione sul cane, e questo io lo vedo al parco. Anche i bambini così. Piccoli, mi scusi, perché anche ieri, guarda, ho visto proprio una coppia che ha un bambino di 3 anni e uno più piccolo, un carrozzino, e il cane, questo cane in collo che viene, cioè non lo so, io a lei questo che... cane in collo non va giù, insomma, ho capito, va bene. No, io penso, no, ho detto mai maltrattare gli animali, no, sinceramente, certo. Però poi siamo arrivati ad un eccesso dove il cane veramente ha più diritti, ho detto nella trasmissione, chiedimi se sono felice, la Celentano è uscita dicendo, ma il bambino, dove era la mamma del bambino quando il cane l'ha morso? Capite, ma un bambino potrà essere libero di andare a un parco da solo. C'è gente che ha perso la testa dietro ai cani, questo è verissimo, grazie Mirella. È vero, buona per sintetizzare giornata. Forse quello che si può dire è che va benissimo non maltrattare, è giusto ricordarci che gli animali non vanno maltrattati, però chi maltratta i bambini è peggio, ecco, questo si può dire. E comunque i gatti a casa, i cani possono stare in spiaggia, ma al guinzaglio o meglio se in spiaggia attrezzate. Questo è quello che ho capito io stamattina parlando con Cararocchi. Ci fermiamo, torniamo tra un attimo con i progetti che chiedono il vostro aiuto, il finanziamento dal basso. Si può fare cronache da un paese migliore. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Appela. Allora, ogni settimana, ogni sabato, due idee, due progetti che cercano il vostro aiuto, cari ascoltatori, che potete trasformarvi tranquillamente in finanziatori, sostenitori di due progetti di finanziamento. A Si può fare, perché il programma delle buone notizie dà spazio alle buone idee. E allora, cominciamo con la prima buona idea di oggi, si chiama Professore in affitto, mentre in tutta Italia ci si affanna a trovare un posto per le vacanze. C'è chi cerca un alloggio in città per settembre, sono i professori che devono andare fuori sede. L'idea è proprio questa, la base di Professore in affitto, aiutarli, e per farlo sperano di raggiungere 2.500 euro grazie alla piattaforma Appela. È con noi Riccardo Angeletti, ideatore di Professore in affitto. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. E allora, come nasce questa idea? Lo abbiamo già un po' spiegato, aggiungi tu quello che non abbiamo detto noi. Raccontacela. Sì, io sono un ragazzo di 21 anni, vengo da Roma e lavorando in un bar scolastico ho capito e visto la reale esigenza di questi professori fuori sede, che in Italia sono quasi 300.000. E in più la nostra piattaforma prende anche i ricercatori appunto fuori sede, che sono un altro 100.000, quindi parliamo di 400.000 persone che ogni anno si spostano per insegnare ai nostri figli, magari non i miei perché sono ancora giovane, però per la maggior parte delle persone e non hanno un sito di riferimento per trovare un appartamento. E come funziona il tuo sito professorinaffitto.it? Il mio sito funziona in due modi, ha un'interfaccia per il professore, quindi che cerca un appartamento, cerca l'appartamento che lui desidera, vicino alla scuola, oppure in una zona piuttosto che in un'altra, e la grande novità è che non spesso il professore è costretto a vivere con altri ragazzi che magari hanno 25 anni, sono universitari. Cioè è costretto a condividere la casa con gli studenti con universitari. Esatto, e questo comunque c'è un gap generazionale tra un ragazzo può di... essere un disagio, può esatto, essere un disagio. Crea un disagio. E tramite noi può affittare con altri colleghi. Ma posso farti una domanda? Nel senso che tu dici, i professori fuori sede, i professori non hanno un sito dedicato, ma perché l'affitto dei professori dovrebbe essere diverso? Nel senso che neanche i gelatai hanno un sito apposta da affitto per i gelatai? Allora, intanto perché, come ho detto prima, il professore si sposta ogni anno e ogni settembre cambia destinazione. Poi, perché? Per il proprietario di casa è comunque una garanzia, perché è lo stesso contratto che offrono agli studenti, che è un contratto provvisorio, è solo che con le garanzie appunto di affittare un professore, ovvero comunque... Cioè, un buon professore non si aspetta una brava persona, uno che paga l'affitto. Non è sempre detto. Non è che se uno fa il professore per forza sia una brava persona. Ma comunque può fare un cambio merci con qualche ripetizione ai figli della famiglia, chissà. Può succedere anche questo. E cosa intendete fare voi di professoreinaffitto.it con questi 2500 euro che chiedete sulla piattaforma di Eppela? Allora, per ora noi siamo attivi su Roma e sta andando anche abbastanza bene, sono contento di questo. Abbiamo intenzione di allargare il nostro portale a tutte le maggiori città e poi creare un team legale che può aiutare sia il proprietario di casa sia il professore che è fuori sede per quanto riguarda i contratti e poi ampliare la nostra piattaforma. Poi stiamo creando un gestionale anche per inserire in modo che il professore può tramite il nostro sito mettere un annuncio per ripetizioni private, quindi diciamo puntiamo ad essere un portale di riferimento per i professori e per il mondo della scuola, non solo per gli affitti, anche proprio un sistema per il professore. Va bene, resta con noi Riccardo Angeletti, perché poi ci avremo l'appello alla fine per convincere i potenziali investitori. Adesso la seconda storia. Ecco la sigla. La seconda buona idea è quella di Gianni Sasso, azzurro del paratriathlon, che parteciperà alle prossime Olimpiadi di Rio, quindi 2016, a 47 anni suonati. Per essere competitivo Gianni però ha bisogno di un equipaggiamento all'altezza, cerca sostenitori attraverso il crowdfunding e il suo obiettivo è raccogliere 5.000 euro. È con noi Gianni Sasso, buongiorno e benvenuto. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti i telespettatori e gli radioascoltatori. Allora Gianni, raccontaci la tua avventura che cerchi di realizzare tramite il crowdfunding e quindi arrivare preparato a Rio 2016. Io ho 47 anni, vengo dall'isola di Ischia, poi a 16 anni ebbe un incidente e rimasi senza la coscia sinistra. Però da lì ho sempre fatto sport, anche qui a Ischia, imparando a giocare a calcio con le stampelle per poi trasformarmi anche in un maratoneta, facendo 3-4 maratone. Poi 3 anni fa mi sono stato avvicinato dalla nazionale italiana di paratriathlon per cercare di provare questa qualificazione, questo grande sogno che si chiamava Rio 2016, che un mese e mezzo fa è diventato ufficiale per la convocazione appunto delle Olimpiadi di Rio, che si terranno dal 7 al 21, certo, dal 2 al 12 settembre praticamente. Sì, dopo l'appuntamento olimpico, quello sì. Mentre qui, insomma, sull'isola dove ci sono tantissimi miei amici, hanno pensato di creare proprio il comitato Gianni Sasso Supporter per cercare di sostenermi e sponsorizzarmi in questa grande avventura. Ovviamente questo crowdfunding che hanno creato con Eppela l'hanno fatto in modo che poi alla fine quello che si raccoglieva, mi sembra che abbiano messo un massimale di 5.000 euro, sì, esattamente, e l'hanno fatto appunto perché vogliono regalarmi appunto tramite questa grande iniziativa che loro hanno pensato e hanno ideato nella maniera più genuina possibile, per sicuramente cercare di equipaggiarmi. Ecco, raccontaci questo, insieme con una sola gamba, le Olimpiadi di Rio 2016, il titolo, cosa, come pensi di investire questi 5.000 euro che noi speriamo che tu possa raggiungere con il crowdfunding, per comprare che tipo di attrezzature? No, le attrezzature che comunque nel triathlon sono quelle lì più importanti sono ovviamente una muta performante, che ce ne sono tantissime ovviamente, anche quelle lì che si usano di giorno, però ci sono delle mute molto performanti, quindi hanno sicuramente un costo un pochino più elevato. Si può poi delle attrezzature che possono essere montate oppure addirittura una bici da corsa, quindi queste sono le attrezzature più importanti, perché nel triathlon sono le discipline, sono 3, nuoto, bici, corsa, quindi... Ci sono molte più attrezzature che in altre discipline. Se uno nuota basta che si compri un costume, diciamo. Esatto, dato che nuotiamo in acque libere abbiamo bisogno di una muta, sicuramente, certo, una muta molto molto performante. E tu che sei un grande atleta, però non sei un professionista che ha tutti gli sponsor dietro e che quindi può trovare facilmente queste attrezzature, giustamente vuoi arrivare e competere ad alto livello e vorresti poter avere queste attrezzature. Noi naturalmente ti facciamo in bocca al lupo, chiaramente Carlo, Stavi per chiedere una cosa? No, no, è una domanda che forse può essere stupida, e allora chiedo scusa, perché mi chiedevo quanto la nazionale italiana, in realtà, se, tu sei un nazionale italiano, quanto la nazionale italiana vi fornisse di queste attrezzature. Immagino che poi per ognuno ci siano esigenze diverse, però io mi aspettavo che ve le fornisse la nazionale. No, allora, la nazionale italiana ci fornisce tutte le attrezzature, questo è ben da chiarire. Perciò dicevo, il crowdfunding è partito da un gruppo di amici miei che volevano addirittura fornire delle attrezzature extra, diciamo, ancora così più migliori. Ovviamente la nazionale italiana mi ha fornito la bicicletta, mi ha fornito una bicicletta abbastanza performante, una muta, addirittura una delle anche delle ultime che è arrivata. Però ce ne sono anche ce ne sono attrezzature ancora di altissimo livello. Ovviamente la Federazione Italiana è arrivata a comprare delle attrezzature che arrivano davvero a una delle buone performance. Ci sono delle, ovviamente, le attrezzature come prendere una macchina invece di avere una Maserati. È chiarissimo ed è bene che abbiamo anche ricordato che quindi in realtà la nazionale ha fornito attrezzature sufficientemente buone. Il modello base, un atleta, il modello con le doppie frecce, invece Gianni vuole un modello un pochino più scattante. Allora avete 30 secondi ciascuno per chiudere, per fare un appello agli ascoltatori, potenziali investitori, perché invece di investire 20, 30, 40, 50 euro altrove possono essere investiti nel vostro progetto. Richiamiamo Riccardo Angeletti, ideatore di professoreinaffitto.it. A te 30 secondi, Riccardo. Eccoci. Allora, per tutti gli ascoltatori, sosteneteci, perché migliaia di professori aspettano il vostro aiuto e hanno bisogno di voi. E un 9 in condotta a tutti quanti per chi ci sostiene. E è veramente importante, perché il professore è la base della nostra cultura e dobbiamo aiutarlo, perché spesso, appunto, condivide la casa con un 25enne e questo non è giusto. se posso dire, un tempo i professori, non so, si bucavano le gomme della macchina, adesso addirittura li dobbiamo aiutare a cercare a trovare l'affitto, ma esatto, va bene così. Loro ci mettono due e noi li aiutiamo. Va benissimo, esatto. 30 esatto. Secondi anche a Gianni Sasso, insieme con una sola gamba alle Olimpiadi di Rio 2016, per convincere gli ascoltatori a investire nel tuo crowdfunding. Io chiedo soltanto eventualmente di portarci insieme a Rio per cercare di competere nel migliore dei modi, e nel eventualità ci fosse la possibilità di poter effettuare tutta la gara con le migliori attrezzature, appunto per poter emergere e cercare di dare filo da torcere a tutti gli altri atleti che ci sono nel mondo e in questa magnifica disciplina, e quindi cercare di venire da Rio con un risultato davvero che ci faccia onore sia alla nazionale italiana, sia all'Italia stessa e alla nostra isola d'Ischia. Senti Gianni come ha sfruttato sapientemente tutti i 30 secondi a disposizione. Per uno sportivo 30 grazie. Secondi sono 30 sono, secondi, sono, esattamente. Sono. E allora grazie a tutti e due, Riccardo Angeletti, professore in affitto.it, e Gianni Sasso, atleta paralimpico, per il suo progetto. Grazie per essere stati con noi, due grazie. Progetti selezionati da Apple e Back to Work 24, come sempre ve lo ricordo ogni settimana. Questa settimana due iniziative a sfondo sociale, tutte e due molto interessanti. Altre volte sono delle vere e proprie imprese, ogni sabato ve le racconteremo ancora a partire da settembre, quando poi riprenderà, si può fare in versione weekend. Ci fermiamo per il traffico, a tra un attimo. Crowd Me Up, la voce del crowdfunding, in collaborazione con Apple. Si può fare. Cronache da un paese migliore. L'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a un metro. Le mareggiate, le code di balena, il cielo senza luna. L'estate addosso, il ghiaccio a un braccio rotto, la voglia di tuffarsi, guardando entrare in acqua tutti gli altri. Ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlerà con me. Canzoni estive, minacce radioattive, distanti come un viaggio in moto in due. Fino a un locale, aperto fino all'alba, ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno. Prima che il vento si porti via tutto, e che settembre ci porti una strana felicità, pensando ai cieli infuocati, ai brevi amori infiniti, respira questa libertà. Allora, l'estate, ma non per tutti, perché sapete che questa settimana c'è stata una polemica su una recensione vera o presunta vera su TripAdvisor di un frequentatore di un villaggio vacanze che si lamentava perché nel villaggio vacanze il panorama era disturbato dalla presenza di disabili. E dice anche, dovevano avvisarmi perché almeno io potevo scegliere di andare in un altro posto. Un'altra parte. Insomma, anche immaginarsi vacanze separate non è il massimo. No. Questo signore non so se ha capito la cazzata, posso dirlo, che ha fatto con questa recensione. E insomma, c'è stato un bel po' di reazioni. Abbiamo parlato in settimana anche con Jacopo Melio, vorrei prendere il treno, il nostro amico Jacopo, che ha risposto per le rime a questa iniziativa, a questa brutta recensione. Ma c'è una iniziativa invece, questa sì, bella, di cui ci piace parlare. Siamo in provincia di Lecce, in località San Foca La Terrazza, una spiaggia attrezzata per disabili. Con noi Giorgia Rollo. Ciao Giorgia, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Presidente dell'associazione 2HE, che significato ha il nome dell'associazione? Ce lo puoi spiegare? Sì, è Center for Human Health and Environment e siamo i promotori del progetto Io Posso. Certo. E della terrazza Tutti al Mare. Noi prediligiamo il nome progetto Io Posso piuttosto che sì, bravo, sì. Se possiamo lo diciamo in italiano, ma così è una cosa nostra che ogni tanto diciamo e lasciamo perdere, non apriamo questa polemica. Giorgia, è molto bello questo progetto perché di spiagge attrezzate per i malati di SLA per esempio e per disabili anche gravi, a volte ce ne sono, spesso sono spiagge private dove magari il buon cuore del titolare dello stabilimento, oppure perché c'è un amico, un parente che viene, spinge a fare questo investimento. In questo caso però parliamo di uno stabilimento pubblico. Certo, è una spiaggia gratuita, l'accesso è libero, noi lavoriamo solo su prenotazione in modo da poter garantire l'accesso insomma a tutti, e siamo aperti da meno di un mese, abbiamo già registrato 270 presenze, circa 70 utenti, 50 nuovi. Cioè, noi abbiamo aperto l'anno scorso per 45 giorni, il primo di agosto, sì. Però quest'anno sono venute 50 persone. Quindi, per la prima volta. Segno che c'è veramente bisogno, sono 9 postazioni, certo. È vero, è tutta un'attrezzatura per che tipo di disabilità? Esatto, noi abbiamo 3 postazioni per malati SLA o comunque persone in condizioni assimilabili, cioè persone che hanno bisogno dell'energia elettrica per respirare in pratica, certo. e 6 postazioni per disabilità differenti, e 12 persone quest'anno hanno già potuto fare, 12 persone tracheostomizzate hanno già potuto fare il bagno, cioè persone che sono costrette a respirare con il ventilatore polmonare hanno potuto fare il bagno, sono entrate in acqua. E abbiamo 4 tipi di sedie differenti a seconda diciamo delle esigenze dell'utenza. Sì. Abbiamo ventilatori polmonari e tutto il materiale di consumo che serve per appunto le persone che utilizzano i ventilatori, e sollevatori, lettini, ma soprattutto abbiamo il personale, OSSE di infermieri che aiutano nella balneazione ma anche nelle operazioni diciamo quotidiane che sono necessarie per persone che hanno questo tipo di disabilità. Beh, sì, è un progetto stupendo, ma mi sembra di capire che è già tutto prenotato, è così? No, abbiamo prenotano via, però c'è posto, se non c'è ci stringiamo perché cerchiamo, effettivamente sulla carta sono 9 le postazioni ma e chi coordina la struttura cerca di fare miracoli e cerchiamo di mettere. Credo che di nuovo non si può fare anche questo. Assolutamente. Credo che una spiaggia pubblica attrezzata in questo modo, con 9 postazioni di questo livello, sia un caso quasi unico. Quindi il Salento sì, si sì, conferma unico. Una zona di accoglienza eccezionale. E, esatto. Tra l'altro, tutto questo l'avete realizzato con una sorta di autofinanziamento, no? Sì, c'è la collaborazione del Comune di Melendugno che è il proprietario della struttura, l'ASL ci ha finanziato l'anno scorso e ci finanzia quest'anno, però la maggior parte, quest'anno abbiamo avuto anche il contributo di AISLA, però la maggior parte diciamo dei fondi sono a nostro carico, diciamo, quelli che riguardano la gestione, che poi è la parte più cospicua delle uscite, insomma, per noi. E la cosa da quale ci tenevo, diciamo, a sottolineare, proprio in riferimento al post al quale facevate riferimento, che sì, c'è una perfetta integrazione tra la spiaggia pubblica, tra l'utenza pubblica, diciamo, e la nostra struttura. Molte persone ci aiutano anche a pulire la passerella, ci danno una mano, ma ci finanziano anche acquistando i nostri gadget che sono disponibili presso la sede o facendo una semplice donazione. Quindi noi queste realtà o queste persone, diciamo, non le abbiamo incontrate, per certo, fortuna, ma incontriamo, insomma, persone. E poi, insomma, le vacanze sono veramente un diritto assolutamente di tutti ed è certo, giusto farle insieme. Questa, sì, poi è una spiaggia certo, pubblica. E mi sembra una parte del progetto il fatto, tu giustamente sì, parli di integrazione, ma è quasi che è proprio giusto ricordarci che ci sono persone che stanno male o che stanno in un altro modo, e quindi mi sembra più che integrazione, mi sembra quasi il progetto è quello, è proprio tutti insieme, perché esatto, sennò è troppo facile, sì, dici andate là in un angolino senza farvi vedere. Esatto, è proprio questa la bellezza della nostra struttura. Complimenti. Vi invitiamo a visitarla sul sito www.ioposto.eu e sulla nostra pagina Facebook Io Posso Oltre SLA. Potrete ammirarne anche la bellezza oltre che la funzionalità, perché ogni piccolo pezzo della struttura è stato studiato, voluto da tante persone nel corso di questi anni, più di 100 volontari, ma anche altre associazioni che hanno collaborato, non solo pugliesi ma anche in tutta Italia, piccoli imprenditori che ci stanno finanziando e supportando, è veramente una realtà inclusiva. Giorgia, è giusto anche dire che tutto nasce da un'amicizia, da una persona, no? Vogliamo anche ricordare Gaetano Fuso? Sì, tutto nasce da un'idea di Gaetano, che è mio marito, che ha, diciamo, voluto, ha espresso questo suo sogno e tutti i nostri amici hanno voluto realizzare in pochissimo tempo, poi possiamo perché dire, perché questa è una parte importante del progetto, certo, è stato lui il motore di tutto e colui, diciamo, che stimola tuttora nelle iniziative, ed è importante, insomma, è parte attiva in tutto e per tutto. Quindi forza Giorgia e forza Gaetano soprattutto, e complimenti per questa bellissima spiaggia, grazie, super mille, attrezzata, bravi, molto grazie, bello, non si poteva rispondere che così, meglio di così non era possibile alla brutta vicenda di questa settimana. Siamo in chiusura, dobbiamo dare proprio, il vincitore del gioco, Stefania, bravissimo, vince Stefania da Monza con la sua storia di limoni. La storia di limoni, lingua e limoni, direi italo-tedesca. Abbiamo detto tutto. Si porta a casa i biglietti della mostra di Miro allo Splendido Music di Milano. È tutto, un ringraziamento naturalmente ad Andrea Piana. Giovanni Melchiorri in redazione sarà con noi quest'estate, un nuovo ingresso a Radio 24 e Peter Vescapa in regia, certamente.